Bentornati a Piedi Pagina, storia di musica. Ciao a tutte e tutti da Freda, la redazione di Vallun, www.radiovallun.info. Nell'appuntamento di Nota a Piedi Pagina di oggi vogliamo dare il nostro contributo, come storiche e storici, a questa battaglia quotidiana che la nostra radio sta conducendo, una fra le poche emittenti, una fra le poche testate di informazione, occupandosi seriamente e con genuinità di Palestina. Noi lo vogliamo fare raccontando per l'appunto storia e musica. Perché raccontare la Palestina attraverso la musica? Un bellissimo spunto ci è arrivata da Fiamma Arditi con un libro oramai del 2014 edito da Fazzi, Buongiorno Palestina. In questo libro la giornalista va a ricostruire una parte della società civile palestinese che si esprime attraverso i vari canali, i vari linguaggi dell'arte. Uno di questi è la musica e uno di questi è l'hip hop, per l'appunto, che è l'argomento dell'appuntamento di Nota a Piedi Pagina di oggi. Perché questa attenzione alla musica e perché questa attenzione all'hip hop? Perché sono due delle maniere con cui si è espresso e continua ad esprimersi quel dissenso, quella rabbia profonda che c'è all'interno della società palestinese. Dico volutamente della società palestinese, perché all'interno della Palestina, forse questo vale sempre la pena ricordarlo, è sempre esistito un forte spirito molto combattivo da parte di quella che potremmo definire la base, oppure la società civile, che non si è mai arresa di fronte all'occupazione, di fronte alla pulizia etnica condotta dallo Stato di Israele, di fronte alle drammatiche condizioni dei campi profughi, ma che non si è mai arresa neanche di fronte allo strapotere di Hamas all'interno della striscia di Gaza e del clientelismo e dello strapotere anche qui di Fatah all'interno della Cisgiordania e degli altri territori occupati. C'è questa società civile, che è quella società civile che ha avuto un'espressione molto forte all'interno della prima intifada, nei comitati di base che avevano dato forza a quella mobilitazione di popolo veramente, e che è anche quella società civile che abbiamo visto nelle proteste contro gli sgombri a Porta Damasco e Sheikh Jarrah a Gerusalemme. Quella società civile oggi ha un altro linguaggio con cui esprimersi, che è quello dell'hip hop, per l'appunto. سين سنة احنا عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين انا ما يتغير مش حاسين ولا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص نجمات زكراك انت بغيرك انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي دار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض يدور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد وتجدد قصور كل غصن ممدود السلام كل غصن معروض الاحتلال ما يريد استسلام طب ليه؟ ليه انا اللي ما اله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه وين ما رحت اشوف حدود سجني الانساني لاطفال العالم حره Stiamo parlando di hip hop e Palestina e di come l'hip hop palestinese ha raccontato e continua a raccontare una forma della resistenza della società civile palestinese. È molto interessante andare a vedere quello che è stato il percorso che ha fatto questa cultura per insediarsi in Medio Oriente. L'hip hop è un linguaggio universale, ovviamente. In Israele ha avuto una sua diffusione grazie alla stretta vicinanza con gli Stati Uniti, ma il fatto che venisse trasmesso dalla Radio dell'Esercito Galgalatz, è importante ricordarlo questo perché Radio Galgalatz, la Radio dell'Esercito, è una delle migliori emittenti a livello musicale, ai noi, dello Stato ebraico. Attraverso questi canali è arrivato anche nei territori occupati, è arrivato anche all'interno di quelle comunità di palestinesi residenti in Israele, è arrivato poi da lì anche in tutta la diaspora palestinese. In questa musica i giovani palestinesi, che se ne sono iniziati a nutrire, diciamo, soprattutto grazie all'avvento di internet, cioè alla piena diffusione di internet e alla diffusione dei brani scaricati e dei CD masterizzati, questo è importante ricordarlo, come anche i mezzi abbiano un peso. In questa musica, dicevamo, i giovani palestinesi hanno trovato qualcosa in più che delle buone sonorità e delle buone possibilità di fare delle rime. Hanno trovato una vera e propria rappresentazione. Lo dice molto chiaramente Tamer Nafar, il frontman dei Dam, una delle più note crew hip hop palestinesi, e dice: la mia realtà è hip hop, ho ascoltato i testi e ho sentito che parlavano della mia vita. Puoi sostituire la parola negro con palestinese. Lidda, la città da cui proviene Tamer Nafar, è il ghetto, il più grande centro di criminalità e droga del Medio Oriente. Quando ho sentito Tupac cantare "È il mondo dell'uomo bianco", ho deciso di prendere l'hip hop sul serio. E questo è molto interessante quello che dice Tamer Nafar, perché la realtà che hanno trovato in musica i giovani palestinesi nelle parole delle note band e crew hip hop americane ha risuonato molto in loro. Certo, lì c'è la violenza della polizia, ma in Palestina, nei territori occupati, a Gerusalemme, ci sono i controlli regolari da parte dell'esercito israeliano, ci sono i pestaggi, ci sono le identificazioni alla frontiera, c'è la marginalità e c'è la violenza. Il coronamento di questo discorso lo si può vedere con uno dei più noti slogan del Black Lives Matter, "We Can Breathe". I cartelli, anche nelle ultime manifestazioni per la Palestina che ci sono state qua in Italia la scorsa settimana, riportavano "We Can Breathe since 1948. Come viene accolto l'hip hop all'interno della Palestina? Questo è un altro aspetto che è molto molto interessante, perché teniamo in considerazione che a Gaza, soprattutto, che è una delle aree in cui si è sviluppata maggiormente la scena hip hop palestinese, a Gaza e nella Gerusalemme Est, nella Gerusalemme palestinese, sono stati i due luoghi principali. Comunque a Gaza, che è uno dei focus più noti, ai noi, anche in questi giorni, la forza politica preponderante è Hamas, quindi un movimento islamista ultra radicale. Hamas generalmente lascia fare, ma nel momento in cui i testi dei rapper e delle rapper palestinesi mettono in discussione l'ordine sociale e politico che regna all'interno della striscia, inizia a muovere delle accuse, inizia a far pressioni per annullare concerti, annullare la registrazione dei dischi, e incalza questi artisti, perché li accusa di utilizzare dei modelli e un linguaggio occidentale. La cosa che è interessante, che dimostra la piena collocazione dell'hip hop all'interno della storia della società civile palestinese, è il fatto che questi artisti, oltre ad avere sulle spalle il bagaglio della rabbia di chi si è sentito tradito dagli accordi di Oslo del 1993, che hanno portato all'istituzione dell'autorità nazionale palestinese, ma che hanno lasciato i campi profughi in condizioni immutate, che non hanno previsto nulla per il ritorno dei profughi, in questi artisti, dicevamo, c'è anche la consapevolezza che all'interno della Palestina c'è una tradizione culturale e letteraria che è molto forte. Un esempio lo abbiamo avuto dal primo brano che abbiamo ascoltato, ma un esempio ancora più forte lo abbiamo da questo brano che ci iniziamo ad ascoltare, che è di Vlad Elzara, in cui vengono ripresi i versi e la figura del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish. يحكون في بلادنا يحكون في شجن عن صاحب الذي مط وعاد في كفن مقال حين زردت خطاه خلف الباب لأمه الوداع مقال للأحباب للأصحاب موعدنا خذ ولم يضع رسالة كعادة المسافرين تقول إني عائد وتسكت الظنون ولم يخطي كلمة تضيء ليل أمه التي تخاطب السماء والأشياء تقول يا وسادة السرير يا حقيبة الثياب يا ليل يا نجوم يا إله يا سحاب أما رأيتم شاردا عيناه نجمتان يداه سلتان من ريحان وسطره وسادة النجوم والقمر. Capitolo a parte in questa storia musicale forse la meriterebbe la cosiddetta questione femminile, la questione delle artiste palestinesi della scena hip hop. Molte di loro vengono da villaggi e da città palestinesi in Israele, e la loro lotta è una lotta che è faticosissima, perché devono lottare contro l'occupazione, devono lottare per la resistenza, per la loro affermazione come palestinesi, ma allo stesso tempo devono sgomitare letteralmente per farsi avanti all'interno di una società tradizionalmente conservatrice come è quella palestinese. La loro forza, la forza di queste artiste, è tale che hanno iniziato ad affermarsi in tutto il mondo, diventando un paradigma del popolo che lotta. È nelle donne e nelle loro resistenze, nelle resistenze di queste artiste, ma in più in generale delle donne di Palestina, che si riesce a trovare un esempio, un modello, un paradigma per l'appunto per leggere le lotte di tutto il mondo, di tutti i popoli oppressi. Un ottimo esempio è il brano con cui vi salutiamo, Somos Sur, realizzato dalla rapper franco-cilena Ana Tijoux, e che ha cantato in questo brano assieme a quella che è una delle star, fra virgolette, dell'hip hop palestinese, anche se della diaspora, Shadia Mansour, e adesso ce l'ascoltiamo. Tu nos dices que debemos sentarnos.